Capitolo 9. Meg alla fiera della vanità. Diceva Meg: È stata una vera fortuna che la rosolia coi bambini gli sia venuta proprio adesso. Era d'aprile e Meg, nella sua camera in mezzo alle sorelle, stava facendo il baule dei grandi viaggi. E brava, anche Annie Moffat è stata a non scordarsi la promessa, eh? 2 settimane a divertirti, mica male, commentava Joe mentre le sue lunghe braccia, attivamente occupate a piegare le camicie, le davano l'aspetto di un mulino a vento. E con questo tempo magnifico ne ho piacere davvero, aggiungeva Beth, che metteva in bell'ordine i nastri per il collo e per i capelli nella sua scatola più bella prestata a Meg per l'occasione. Vorrei poterci andare io a divertirmi e metterla io tanta bella roba addosso, diceva Amy con le labbra strette per tenervi gli spilli che andava artisticamente appuntando sopra un cuscinetto della sorella. E Meg, vorrei che ci veniste tutte con me, ma visto che non si può, terrò bene a mente ogni cosa che mi succede per raccontarvela poi quando torno. È il meno che posso fare, visto che tutte siete così buone e mi prestate tante cose e mi aiutate tanto per essere pronta. Meg girava lo sguardo intorno al suo bagaglio che era ancora fuori, in mostra. Bagaglio semplice, ma che alle 4 sorelle pareva il non plus ultra della perfezione, o giù di lì. Che cosa ha tirato fuori la mamma? Chiedeva Amy, dalla cassetta dei suoi tesori per prestartela. Amy non era stata presente quando la signora March aveva aperto una certa cassetta di legno di cedro in cui conservava alcune reliquie degli splendori di una volta per farne dono alle figliuole. Un paio di calze di seta, quel bel ventaglio intagliato e una magnifica sciarpa azzurra. Io avrei voluto il vestito di seta violetta, ma non c'era il tempo per finirlo e devo contentarmi di quello mio vecchio di tarlatan. Che andrà molto bene con la mia sottana nuova di mussolina e con la sciarpa ci farà un bel contrasto. Mi dispiace che ho fracassato quel braccialetto di corallo, te l'avrei dato adesso. Così parlava Jo, pronta sempre con tutto il cuore a donare e a prestare la sua roba, che però di solito era troppo mal ridotta per poterne fare uso. E Meg. Nella cassetta c'era un bel vezzo di perle all'antica, ma la mamma ha detto che per una signorina giovane la cosa che va meglio sono i fiori naturali. E Lori mi ha promesso di mandarmene quanti ne voglio. Vediamo un po' allora. Il vestito grigio da passeggio va bene. Beth, ci vorrebbe una ricciatina alla piuma del cappello. Poi la veste mia di popellina per le domeniche e per mezza sera. Non sarà un po' greve per la stagione? È inutile. Era meglio la seta viola. Non importa, per sera hai sempre quello di tarlatan e sei a posto. In bianco tu sembri un angelo, lo sai, disse Amy, con gli occhi e con l'anima perduti a contemplare le cose, non molte, ma fini, che erano in mostra. È un po' chiusa sul collo e non è lunga abbastanza, ma potrà andare. Del resto non c'è rimedio. Il vestito mio di casa, quello azzurro, rivoltato e stirato, fa un figurone. Pare nuovo. La gonna di seta è un tantino passata di moda e quel cappello non è bello come quello di Sally. Per l'ombrello non ho voluto dir niente, ma è stata una grande illusione. Nero, avevo detto alla mamma, e col manico bianco, ma se ne è dimenticata e me lo ha comperato verde con un brutto manico giallastro. È buono, di qualità, è forte. Anche la forma è elegante, quindi non posso lamentarmi. Ma che figura farà accanto a quello di Annie, che è di seta e col manico d'oro? E Meg lo guardava sospirando il suo ombrellino verde. Fatelo cambiare, consigliò Joe. Ma ti pare? Per una piccolezza simile dar forse un dispiacere alla mamma dopo che si è data da fare tanto. E poi forse è una cantonata che ho preso, una mia idea storta, a cui non voglio dare retta. Quello che mi consola poi sono le calze di seta e le 2 paia di guanti nuovi nuovi. Tu sei stata un angelo, Joe, a prestarmi i tuoi. 2 paia nuove e quelli di tutti i giorni rimessi in ordine danno un'idea di ricchezza, di eleganza quasi. E Meg tornò a sollevarsi il morale con un'altra occhiata alla scatola dei guanti ancora aperta. Beth ritornava con le braccia cariche di mussoline ancora calde del ferro di Anna e Meg le disse: Le cuffie da notte! Annie Moffat te le porta con i nastri rosa e azzurri. Perché non ce li vuoi mettere alle mie? No, l'interruppe Joe. Sarebbero fuori luogo, stonerebbero fra le tue sottane semplici e senza guarnizioni. Le porterò mai io le biancherie col pizzo vero e le cuffie coi nastri? Domandò Meg con impazienza. E Beth, col solito tono tranquillo, osservò: Non dicevi l'altro giorno che eri già felicissima di poter andare da Annie Moffat? Già, Dicevo così, e del resto felice sono io, e non voglio lamentarmi, ma più si ha e più si vorrebbe avere, non è così? Dunque, vediamo un po'. Le scatole sono pronte, tutto è messo dentro meno il vestito da sera, quello lo lascio fare alla mamma. Lo sguardo di Meg si posava alternativamente sul baule riempito a metà e sul vestito bianco di tarlatan, tante volte stirato e riparato, che ella con molta importanza chiamava il suo vestito da ballo. L'indomani faceva bel tempo e Meg partì con solennità per la sua quindicina di novità e di piaceri. La signora March le aveva dato il permesso un po' a malincuore, temendo che la figliuola le ritornasse a casa malcontenta, ma Meg l'aveva tanto pregata e Sally aveva promesso di avere molta cura di lei e un po' di divertimento pareva così bello dopo un'invernata di fatiche. E così la mamma cedette e Meg andò ad assaggiare il primo gusto della vita elegante. Ed eleganti erano davvero i Moffat. Meg era una ragazza semplice e sulle prime lo splendore della casa e il lusso dei suoi abitanti le fecero un po' di impressione. Ma pur vivendo una vita frivola, essi erano anche persone cortesi e ben presto l'ospite si trovò a suo agio. Meg sentì forse, ma senza saperne il perché, che non erano molto colti né molto intelligenti e che la loro apparenza raffinata nascondeva male la materia ordinaria di cui erano fatti. Certo era bello mangiar bene, trottare in una bella carrozza, vestirsi da festa tutti i giorni e non avere altro pensiero che divertirsi. Meg ci si trovò benissimo e in breve cominciò a imitare i modi e la conversazione della gente che la circondava, a darsi qualche aria, a ostentare qualche vezzo, a mettere nel suo discorso qualche parola francese, a ondularsi i capelli, a portare con disinvoltura le sue vesti più belle, a parlare, e come poteva lei, di mode. E più vedeva le belle cose che possedeva Annie Moffat, e più l'invidiava e sospirava perché non era ricca. La sua casa, quando ci pensava, le appariva nuda e triste, il suo lavoro di tutti i giorni più duro che mai, malgrado i guanti nuovi e le calze di seta, ella si sentiva povera e trattata male dalla sorte. Però non aveva molto tempo per affliggersene, perché le tre ragazze erano sempre in grande affare per avere un buon tempo, come si dice in inglese, ossia per divertirsi. Botteghe, passeggiate, trottate, visite, teatri di prosa ed opera, serate allegre in casa, perché Annie aveva molti amici e sapeva ricevere. Le sorelle più grandi erano belle signorine, una di esse era fidanzata, cosa molto interessante e romantica, pareva a Meg. E signor Moffat era un signore vecchio, grasso e allegro, conosceva suo padre. La signora Moffat, anche lei vecchia, grassa e allegra, ebbe subito simpatia per Meg. Come sua figlia. Tutti la carezzavano e così alla Margheritina, a Daisy, come la chiamavano, la testa cominciava a girare parecchio. Quando venne il giorno della piccola serata, Meg si accorse che la sua popellina non andava bene affatto. Tutte le altre ragazze mettevano vestiti leggeri e si facevano proprio belle. Allora lei tirò fuori il vestito di tarlatan, che le parve più vecchio, più frusto, più povero che mai accanto a quello di Sally, nuovo nuovo. Meg si accorse delle occhiate che gli davano le ragazze e di quelle che si scambiarono fra loro e le vennero le fiamme al volto. Con tutta la sua gentilezza era anche molto orgogliosa. Nessuno le diceva nulla, ma Sally si offerse di acconciarle i capelli, Annie di legare la sciarpa. Bella, quella che era fidanzata, le fece un complimento per il candore delle sue braccia. Ma sotto le gentilezze Meg sentiva la compassione e se ne stava triste e chiusa con un gran peso sul cuore mentre le altre ridevano, cicalavano, si lisciavano, saltando qua e là come farfalle che svolazzano. E il suo corruccio si faceva ad ogni momento più duro, più amaro, più risentito allorché la cameriera entrò portando una cesta di fiori. Prima che Meg aprisse bocca, Annie la scoperse e alla vista di quelle rose stupende in mezzo alle eriche e alle felci fu un'esclamazione generale di meraviglia. «Saranno per bella, naturalmente», esclamò Annie fiutandole. «Giorgio glieli manda sempre i fiori, ma questi sono un vero splendore». «Sono per Miss March», disse l'uomo che aveva portato la cesta. «C'è anche un biglietto» e lo porse a Meg. «Oh, bella! E chi te li manda? Non sapevo che avessi un adoratore!» esclamarono affollandosi tutte intorno a Meg, piene di curiosità e di sorpresa. «Il biglietto è di mia madre. E i fiori li manda Lori, disse Meg con semplicità, ma dentro di sé gongolava. Non l'aveva scordata Lori. Ah sì? Disse Annie, ammiccando con l'occhio mentre Meg si metteva in tasca il biglietto come una specie di talismano contro l'invidia, la vanità e il falso orgoglio. Quelle poche parole affettuose della mamma le avevano fatto bene e i fiori magnifici finirono per risollevarle il morale. Ella tornò quasi felice e si tenne per sé qualche rosa e qualche felce. Il resto lo distribuì subito fra le altre in tanti mazzolini deliziosi da mettere sul petto, nei capelli, alla cintura. E la sua offerta era fatta con tanta grazia che Clara, la sorella maggiore, dichiarò che Daisy era l'essere più caro del mondo. E tutte furono riconoscenti e incantate di quella piccola attenzione. L'atto gentile ebbe in certo modo l'effetto di dissipare in lei ogni residuo di malumore. E quando andarono tutti a farsi vedere dalla signora Moffat, Meg, guardandosi nello specchio, si vide col volto felice e con lo sguardo luminoso, e il suo vestito adesso, con le felci nei capelli ondulati e con le rose, non le parve più tanto meschino. Quella sera si divertì molto perché ebbe da danzare finché volle e tutti erano tanto gentili. Ben tre furono le persone che le fecero dei complimenti. Annie la pregò di cantare e qualcuno trovò che aveva una bella voce. Il maggiore Lincoln domandò chi era quella ragazza così giovane e fresca, con gli occhi così belli. E signor Moffat vuole danzare con lei? Perché secondo la sua gentile espressione non si dava quelle arie di languore e si muoveva. Tutto sommato, era una bella serata e Meg si divertiva tanto. Ma a un certo momento il suo orecchio afferrò un frammento di conversazione che la turbò grandemente. Era nella serra presso la porta, aspettando che il suo cavaliere le portasse un gelato, quando udì una voce dall'altra parte della muraglia di fiori che domandava: «Quanti anni ha lui?» «Oh, 16 o 17, direi», rispondeva un'altra voce. «Oh, sarebbe un partito magnifico per una di quelle ragazze, vero? Sally dice che sono tutte molto intime con lui e il vecchio va pazzo per tutte e quattro. La mamma ha fatto i suoi progetti, secondo me, e le gioca bene le sue carte, fin d'ora. La ragazza no, ancora non ci pensa, si vede. Però quella frottola del biglietto che era della mamma l'ha detta, come se lei lo sapesse prima di aprirlo, e com'è arrossita bene. Povera piccina, però, sarebbe così graziosa se fosse ben messa. Credete che si offenderebbe a offrirle in prestito un vestito per giovedì?» Questo lo diceva una terza voce. «È orgogliosa, ma non credo che ci baderebbe. Quel povero vestito di tarlatano è tutto quello che ha. Se così per caso questa sera se lo strappasse, sarebbe una buona scusa per offrirgliene uno decente. Vedremo, ne parlerò a quel Lawrence con la scusa di lodargliela e dopo rideremo un po'.» In quell'istante il cavaliere di Meg ritornava e la trovò tutta rossa e alquanto agitata. Ma orgogliosa era davvero, e in quel momento l'orgoglio le giovò assai per nascondere la mortificazione, la rabbia e il disgusto che le destavano le parole udite poco prima. Innocente e senza sospetti, non poteva però non capirle quelle chiacchiere. Cercava di non pensarci, ma non ci riusciva. Quelle parole. La mamma ha fatto i suoi progetti, e poi la frottola del biglietto, e quel povero vestito di tarlatan, le ritornavano in mente ad ogni istante. Ah, poter piangere, poter correre a casa a confidarsi, a domandare consiglio. Ma tutto questo era impossibile, e Meg fece un grande sforzo per mostrarsi allegra. Agitata com'era, ci riuscì assai bene, e nessuno si accorse dello sforzo. Però fu ben contenta quando tutto fu finito e a letto poté pensare e stupirsi e indignarsi tanto che si sentì il mal di capo e qualche lacrima che le venne spontanea le rinfrescò un poco le gote arrossate. Quelle parole, dette alla leggera, ma senza cattive intenzioni, avevano schiuso a lei un mondo nuovo, portato il turbamento nella pace di quello vecchio in cui fino allora ella viveva felice come una bimba. I discorsi avventati che aveva udito le guastavano la simpatia innocente che ella aveva per Lori. La sua fiducia nella madre era un pochino scossa dai calcoli attribuitile dalla signora Moffat, la quale giudicava gli altri da se stessa, e la sua determinazione giudiziosa di accontentarsi del suo guardaroba semplice, adattato per la figlia di un uomo che era povero, adesso vacillava un po' davanti alla pietà superflua di quelle ragazze, per le quali un vestito un po' misero era una delle più grandi calamità della vita. La povera Meg passò una notte inquieta e si alzò con gli occhi stanchi, infelice, risentita con le amiche e vergognosa di non aver parlato apertamente e detto le cose come stavano. Così avrebbe accomodato ogni cosa. Quella mattina tutti si alzarono tardi e arrivò al mezzodì prima che le ragazze trovassero solo quel poco di energia che ci voleva per prendere in mano il lavoro a maglia. Qualche cosa nel contegno delle sue amiche le fece subito una certa sorpresa. Le pareva che la trattassero con più rispetto e che prendessero un affettuoso interessamento in tutto ciò che diceva, guardandola con occhi che evidentemente tradivano una certa curiosità. Tutto ciò la sorprendeva, la lusingava, ma del perché non si rese conto finché Bella, che stava scrivendo, sollevò gli occhi e disse con aria sentimentale: Daisy, mia cara, ho mandato un invito al tuo amico per giovedì. Vorremmo fare la sua conoscenza e del resto è un riguardo che ti dobbiamo. Meg si fece rossa, ma una tentazione maligna di prenderle un po' in giro le fece rispondere con molta calma: Siete molto gentili, ma temo che non ci verrà. Perché, Sherry? Oh, è troppo vecchio. Ma cosa dici mai? Che età ha? Dimmi, esclamò Clara. Ha 70 anni, credo, rispose Meg, contando con molta attenzione le maglie per non far vedere che gli occhi le ridevano. Ce l'hai fatta, burlona, esclamò Bella ridendo. Del giovane si parlava noi. Non ci sono giovani. Lori non è che un ragazzo, disse Meg ridendo anche lei al vedere l'occhiata curiosa che si scambiarono le ragazze sentendola parlare così del suo supposto innamorato. All'incirca? Alla tua età? Disse Nan. Oh, piuttosto l'età di mia sorella Jo, disse Meg scuotendo il capo. Io compio 17 anni in agosto. È molto carino da parte sua mandarti fiori, no? Osservò Annie, chissà perché, molto seria. Sì, ma ce li manda spesso, a tutte. La sua casa ne è piena e a noi piacciono tanto. La mamma e il vecchio signor Lawrence sono amici, sapete, e noi ragazzi naturalmente si gioca insieme. Meg sperava che il discorso finisse lì, ma Clara, volgendosi a Bella con un cenno d'intesa, osservò: È evidente che Daisy non va in società ancora. Già, fece Bella, stringendosi nelle spalle, tenera infanzia ancora, innocenza pastorale. In quel momento, dondolando come un elefante, entrò la signora Moffat in seta e merletti, dicendo: Esco per prendere certe piccole cose per le mie ragazze. Posso fare niente per voi, figliuole? Oh, no, grazie, mamma, disse Sally. L'abito di seta rosa per giovedì l'ho già, non mi occorre altro. Neanche a me, cominciò Meg, ma si fermò perché le venne in mente che a lei invece gliene occorrevano tante di cose e non le poteva avere. Tu cosa metti? Le domandò Sally. Oh, sempre il mio vestito bianco, se riesco a ripararlo in modo presentabile. Ci ho fatto un brutto strappo ieri sera, disse Meg, cercando di darsi un'aria molto disinvolta e non riuscendoci affatto. Perché non mandi a casa a prenderne un altro? Le domandò Sally, che non era molto osservatrice. Oh, non ne ho. La confessione costò un bello sforzo a Meg, ma Sally non se ne accorse e, sorridente e sorpresa, esclamò: Oh, non è che questo! È buffo, toh! Ma non finì perché Bella la interruppe osservando in tono cortese: Perché? A che le servirebbe avere tanti vestiti se ancora non va in società? Del resto non c'è nessun bisogno che tu mandi a casa, Daisy. Nemmeno se tu ne avessi 10. Io ne ho uno di seta azzurra che è un amore, ma che per me è diventato corto e stretto. Tu lo metterai, è vero? Per farmi piacere. Oh, sei molto buona, ma a me del vestito vecchio non importa se non dispiace a voi. Va benissimo ancora per la mia età. No, Meg, tu devi lasciarti fare più bella da me, per farmi piacere. Mi divertirà tanto e tu farai una figura magnifica. Ci voglio mettere le mani io per qualche tocco qua e là. Nessuno deve vederti prima. A un certo momento compariremo tutte e due come Cenerentola e la sua madrina. Il tono di Bella era molto persuasivo. Meg non poteva rifiutarla, un'offerta fatta con tanta gentilezza. Anche perché l'idea di fare con qualche tocco qua e là una figura magnifica le sorrideva. Accettò, dimenticando quel senso di disagio che le ispiravano le amiche Moffat. Giunse il giovedì sera. Bella si rinchiuse con Hortense, la sua cameriera, e fra tutte e due trasformarono Meg in una bella damina. Le arricciarono e ondularono i capelli. Le misero sul collo e sulle braccia una certa cipria profumata, sulle labbra le diedero un po' di pasta di corallo. Hortense avrebbe voluto mettere anche un soupçon, come diceva lei, di rosso, ma Meg non ne volle sapere. La serrarono dentro un vestito celeste tanto stretto che ella respirava a stento e tanto scollato che la povera Meg, guardandosi nello specchio, arrossiva. Braccialetti, spilla e anche gli orecchini, tutto di filigrana d'argento. Gli orecchini glieli applicò Hortense con un filo rosa di seta che non si vedeva. Un mazzetto di boccioli di rosa e una ruche sul petto riconciliarono Meg con la scollatura che mostrava il candore delle spalle. Due scarpini di seta azzurra col tacco alto completarono la sua felicità. Fazzoletto di pizzo, ventaglio di penne e un altro mazzolino in una fibbia d'argento coronarono l'opera. Miss Bella se la guardò con la soddisfazione di una bimba che ha vestito a nuovo la sua bambola. «Oh, mademoiselle charmante, très jolie, è vero?» esclamò Hortense, giungendo le mani in un gesto esagerato di rapimento. «Andiamo, vieni a farti ammirare!» disse Bella, guidando Meg verso la sala dove aspettavano le altre. Meg, tutta frusciante, la seguiva tirandosi appresso il lungo strascico con un lieve tintinnio di orecchini, un ondeggiare di capelli e un battere del cuore. In quel momento le parve di cominciare davvero a divertirsi, quando lo specchio le disse chiaramente che faceva proprio una figura stupenda. Le amiche glielo ripetevano con entusiasmo e per qualche minuto ella rimase lì, come la cornacchia della favola, tutta contenta delle penne prese a prestito in mezzo alle altre che cicalavano come un branco di gazze. «Io vado a vestirmi», disse Bella. «Tu falle un po' di istruzione intanto, Nan. Insegnale come deve fare con lo strascico e coi tacchi alti, se no casca. La farfalla d'argento, mettila in mezzo alla piuma bianca e ferma un po' quel ricciolo lungo a sinistra, Clara. E poi, basta, non me lo guastate, il mio capolavoro». E Bella se ne andò in fretta, soddisfatissima del successo. «Ho paura di discendere», disse Meg a Sally. «Mi sento non so che, così impacciata e mezza svestita». Ma squillò il campanello e la signora Moffat mandò a dire che le signorine scendessero subito. «Non sembri più tu, ma stai molto bene. Mi fai scomparire. Bella ha tanto buon gusto. Tu sembri proprio francese, te l'assicuro. Lasciali pure pendere giù quei fiori, non te ne preoccupare. Sta solo attenta a non incespicare». Così le diceva Sally e cercava di dimenticarsi che Meg era più bella di lei. Tenendo ben presente l'ultimo consiglio, Meg arrivò sana e salva al piano di sotto ed entrò nei saloni dove erano già riuniti i Moffat e alcuni invitati giunti presto. Tosto ella scoperse che nelle belle vesti c'è un fascino speciale che attira certe persone e impone loro rispetto. Parecchie signorine che prima non le avevano mai badato dimostrarono subito una grande affezione per lei e parecchi giovanotti che all'altro ballo si erano limitati a guardarla molto e nulla più, questa volta chiedevano di esserle presentati e le dicevano ogni sorta di sciocchezze piacevoli. Certe signore anziane che facevano tappezzeria e criticavano tutti e tutte furono subito molto curiose di sapere chi era e lo domandavano. Ad una di esse la signora Moffat rispose: «È Daisy March. Il padre è colonnello dell'esercito, una delle nostre prime famiglie, ma sapete, rovesci di fortuna, grandi amici dei Lawrence. Lei è un amore di bimba, ve l'assicuro, il mio Ned ne è addirittura pazzo». «Oh, signore», disse la vecchia dama e tornò a mettere Meg nel fuoco del suo occhialino per guardarsela meglio. Meg cercò di darsi l'aria di non aver sentito nulla e di nascondere la sorpresa che le facevano le frottole che raccontava la signora Moffat. Quel tale senso di impaccio non se ne andava, ma ella con uno sforzo si immaginò di recitare una parte, la parte della bella dama, e se la cavò abbastanza bene, per quanto il vestito stretto le desse un dolore ai fianchi, lo strascico le si cacciasse ogni momento sotto i piedi, e nonostante la paura che le si staccassero gli orecchini perdendosi e rimanendo calpestati. Scherzava col ventaglio, rideva alle mediocri facezie di un giovanotto che voleva fare lo spiritoso, ma ad un tratto non rise più e rimase tutta confusa. Proprio in faccia a lei c'era Lori e la guardava senza dissimulare la sorpresa e anche, le parve, la disapprovazione. Le fece da lontano un sorriso e un inchino, ma nel suo sguardo, leale, c'era qualche cosa che le fece salire il rossore al volto e desiderare di avere indosso il suo vecchio vestito. La confusione fu completa quando vide Bella fare un cenno a Danny e tutte e due guardare alternativamente lei e Lori, il quale, con gran piacere di Meg, aveva l'aria ancora più giovanile e più timida del solito. Quelle sciocche, che idee mi vanno a mettere nella testa? Non voglio curarmene, non voglio mutare in nulla il mio contegno, pensò Meg, e con un gran frusciare di sete attraversò la sala e andò a stringere la mano all'amico. Ho piacere di vederti, temevo che tu non venissi, gli disse, prendendo con lui un'aria da persona grande. Ha voluto Joe che ci venissi, per raccontarle poi che figura fai, e così? Eccomi qua. Lori non la guardava, ma gli veniva quasi da ridere per il tono materno di lei. Cosa le dirai a Joe? Meg aveva una gran curiosità di sapere l'opinione di Lori, ma per la prima volta in vita sua si sentiva un po' impacciata con lui. Le dirò che non ti ho riconosciuta. Hai l'aria di una persona grande, non sembri più tu. Mi fai un po' paura, anzi, disse Lori lottando con un bottone di guanto. Oh, che sciocchezze. Le amiche mi hanno voluta vestire così per fare uno scherzo, che del resto mi piace. Che occhi farebbe Joe se mi vedesse, eh? In realtà Meg voleva sentire quello che pensava lui e se la trovava meglio o peggio. Resterebbe molto sorpresa, rispose Lori serio. E a te piaccio così? Finì col chiedergli Meg. No, rispose lui senza complimenti. No? E perché? Domandò Meg preoccupata. Egli le guardò i capelli ondulati e le spalle nude, passò in rivista con un'occhiata tutto l'abbigliamento. I suoi occhi avevano un'espressione che la fece restare confusa più della risposta che egli le diede con un tono in cui mancava del tutto l'abituale gentilezza. Tutte queste cose vistose, tutte queste piume, non piacciono a me. Questo era un po' troppo da un monello che era più giovane di lei, e Meg lo lasciò dicendogli un po' impertinente: Sei il ragazzo più sgarbato che ho conosciuto. Era molto arrabbiata e si rifugiò nel vano di una finestra. Sola sola, per sentire un po' di fresco sulle gote, rosse per effetto del vestito stretto. Passò di là il maggiore Lincoln e poco dopo ella lo udì che diceva a sua madre: A quella bambina le mettono in testa delle idee sciocche. Volevo fartela conoscere, ma me l'hanno guastata. Questa sera non è che una bambola. Oh, signore, sospirò Meg, quanto avrei fatto meglio a mettere il vestito mio. Non avrei fatto cattiva impressione e adesso non mi sentirei tanto a disagio e piena di vergogna. Posò la fronte sul vetro freddo e rimase lì, mezza nascosta dalle tendine, senza accorgersi che suonava nel suo valzer preferito. Si sentì toccare e si voltò. Era Lori, pentito, che le diceva con un bell'inchino, stendendole la mano: Ti prego, perdona la mia franchezza un po' troppo rude, vieni a ballare con me. Non voglio sacrifici, disse Meg, cercando di mostrarsi arrabbiata, ma senza riuscirci. Nemmeno per sogno, muoio dalla voglia di ballare con te. Vieni, sarò buono. Il tuo vestito non mi piace, ma tu sei semplicemente splendida, disse Lori, cercando di esprimere con un largo gesto delle mani un'ammirazione per la quale non trovava le parole. Allora Meg sorrise placata, mentre aspettavano per entrare in tempo, gli disse sottovoce: Sta attento allo strascico che non ti faccia cadere. È la mia afflizione e sono stata una sciocca a mettere questo vestito. Oh, te lo puoi appuntare intorno al collo lo strascico, così servirà a qualcosa, disse Lori, guardando con visibile ammirazione gli scarpini azzurri. Li approvava quelli, e via tutti e due, leggeri e pieni di grazia. Quel valzer lo avevano ballato insieme tante volte a casa e così erano affiatatissimi. Era un piacere guardarla, girare in tondo, quella giovane coppia felice, più felice di prima dopo il piccolo battibecco. Lori, mi devi fare un piacere, me lo farai? Egli le faceva fresco col ventaglio. Dopo qualche giro appena le era mancato il respiro, il perché non glielo confessò. Parla. Non dire a nessuno a casa come ero vestita questa sera. Non lo capirebbero lo scherzo e la mamma sarebbe spiacente. E allora perché l'hai fatto? Domandarono gli occhi di Lori con tanta eloquenza che Meg subito proseguì. Glielo dirò io confesserò alla mamma quanto sono stata sciocca, ma voglio essere io, tu non parlerai, è vero? No, sulla mia parola, ma quando mi domandano cosa rispondo? Digli che facevo bella figura e che mi divertivo. Oh, la bella figura gliela dirò ben volentieri, ma quell'altra cosa non mi pare che tu ti diverta, salvo errore. E Lori la guardava con una certa espressione, tanto che ella gli bisbigliò: Oh, in questo momento no, è vero. Non credermi una sfacciata. Ho voluto soltanto scherzare un po', ma lo scherzo non val nulla, me ne accorgo ora e comincio ad esserne stufa. Ecco Ned Moffat, cosa vuole? Disse Lori aggrottando le sopracciglia nere con l'aria di non trovare affatto di suo gusto l'aggiunta del giovane padrone alla loro compagnia. Si è iscritto per 3 balli e verrà a domandarmeli. Che seccatura! Meg aveva un'aria sazia di persona vissuta che Lori trovò divertentissima. Non si parlarono più fino all'ora della cena. Lori la vide bere champagne con Ned e col suo amico Fisher, che facevano gli scemi, come egli osservava dentro di sé. Si sentiva come una specie di diritto fraterno su tutte e quattro le ragazze March, il dovere in un certo modo di sorvegliarle e di sostenerle e difenderle quando ce ne fosse bisogno. Avrai un bel mal di capo domattina, Meg, se bevi troppo di quella roba. Io al tuo posto non la berrei. La mamma non è contenta, lo sai. Egli trovò modo di bisbigliarle chino sulla sedia di lei. Ned era voltato dall'altra parte a prendere la bottiglia e riempirle di nuovo il bicchiere, e Fisher si era chinato per raccoglierle il ventaglio. Questa notte non sono Meg, io. Sono una bambola e faccio ogni sorta di pazzie. Domani deporrò le cose vistose e le piume e ritornerò indecentemente buona, gli rispose lei con un piccolo riso forzato. Quando è così, vorrei che fosse già domani, brontolò Lori. E andò via, apertamente malcontento del cambiamento che vedeva in lei. Meg danzò e civettò, cicalando e ridendo come le altre. Dopo cena, osò mettersi a ballare il passo alla tedesca con risultati calamitosi. Con lo strascico per poco non fece cadere il suo cavaliere e si mise a saltare in una maniera che parve indecente a Lori, il quale si propose di farle poi la predica, ma non ebbe l'occasione perché Meg lo evitò fino al momento che egli andò a salutare. Ricordati la promessa, gli disse lei con un sorriso preso a prestito. Il mal di capo era già arrivato. Silence à la mort, declamò Lori in melodrammatico e andò via. Il loro aparte destò la curiosità di Annie, ma Meg era stanca e non aveva voglia di chiacchierare. Andò a letto, sentendosi come chi è stato al veglione, ma non si è divertito quanto sperava. Tutto l'indomani stette male e il sabato ritornò a casa sua, arci stufa della sua quindicina di divertimenti e convinta di averne avuto più che abbastanza. La domenica sera, seduta tranquillamente fra Joe e la mamma, si guardava intorno con espressione riposata e diceva: «Dopotutto fa piacere star tranquille qui e non avere sempre da metter fuori tutti i momenti le belle maniere di società. È bella la casa, anche se non è splendida». E la signora March? Mi fa piacere, cara, che tu parli così. Temevo che dopo il lusso e gli splendori la casa tua ti sembrasse triste e meschina. Da che era tornata, la osservava con una certa preoccupazione. L'occhio di una madre, un cambiamento nel volto dei figli, lo nota subito. Meg aveva fatto allegramente il racconto delle sue avventure, ripetendo sempre che si era divertita tanto, ma pareva che qualche cosa le gravasse sullo spirito. E quando le due sorelle più piccole furono andate a letto, rimase ancora a guardare il fuoco pensosa, parlando poco e con l'aria preoccupata. Suonarono le 9. Joe propose di andare a letto anche loro. Allora Meg si alzò di scatto in piedi e, preso lo sgabello di Beth, si sedette. Coi gomiti sulle ginocchia della madre, si fece coraggio e parlò. «Mamma, ho da confessarmi». «Me l'aspettavo. Cosa c'è, cara?» «Devo andar via?» chiese Joe, discreta. Ma ti pare? Non ti ho sempre detto tutto. Mi vergognavo di parlare finché c'erano le piccole, ma voi due voglio che le sappiate tutte. Le enormità che ho commesso dai Moffat. Siamo pronte a sentirle, disse la signora March, sorridente ma un pochino in pensiero. Ho già raccontato che mi hanno vestita a modo loro, ma non ho detto che mi hanno anche incipriata, stretta nel busto, ondulata. Mi hanno ridotta, insomma, come una figura dei giornali di mode. Lori ha trovato che non stavo bene. Non me lo ha detto, ma io ne sono certa. C'è stato un signore che parlando di me ha detto una bambola. Sapevo bene che facevo una sciocchezza, ma mi facevano tanti complimenti, che era una bellezza e altre stupidaggini. Insomma, mi sono lasciata rendere ridicola. È tutto qui? Domandò Joe. La signora March in silenzio osservava il volto avvilito della sua graziosa figliuola e non riusciva a trovare nulla di biasimevole nelle sciocchezzuole che le confessava. No. Ho anche bevuto champagne e ho saltato come una pazza e ho anche provato a civettare. Insomma, un sacco di orrori. C'è qualcos'altro, credo, disse la mamma accarezzando le gote vellutate di Meg, che d'un tratto arrossirono mentre la rispondeva lentamente. È vero, stupidaggini anche quelle, ma bisogna che le confessi. Mi fa orrore che la gente dica e pensi certe cose sul conto nostro e di Lori. E Meg riferì i frammenti di conversazione uditi in casa Moffat. Joe osservava la mamma e in quel momento la vide torcere le labbra, come indignata perché qualcuno aveva messo certe idee nella mente ingenua di una sua figliola. Questa è un'indegnità, è un'indecenza, esclamò Joe. E tu non sei scattata, non gli hai detto subito il fatto loro? Non potevo, mi sono trovata così imbarazzata e nemmeno potevo non udire sul principio. E dopo mi è venuta una rabbia, una vergogna. Non ho pensato che avrei dovuto fuggire subito per non sentire altro. Lascia che la incontri quell'animo fatta e ti faccio vedere come si mette a posto la gente che fa certi discorsi. Noi che abbiamo dei progetti, eh? Noi che facciamo le gentili con loro perché è ricco, perché è un bel partito, eh? Sentirai anche lui quando gli racconterò cose capace di dire certa gente sul conto di quattro povere ragazze. E Joe rideva come se in fondo la cosa le sembrasse una burletta. Se tu lo dici a Lori non ti perdono più, non glielo deve dire, mamma, è vero? Esclamò spaventata Meg. No, certe ciarle non vanno ripetute, bisogna dimenticarle il più presto che si può, disse la signora March, seria. È stato un errore il mio di mandarti in casa di persone che conoscevo così poco, persone gentili magari, ma mondane, senza vera educazione, piene di idee ciniche sulla gioventù. Non riuscirò mai a farti capire quanto mi dispiace, quanto male temo di averti fatto col lasciartici andare, Meg. Oh, non stare in pensiero, mamma. Non permetterò che mi faccia male. Mi scorderò tutto il brutto e ricorderò solo il buono, perché mi ci sono tanto divertita e te ne sono molto riconoscente, mamma. E neppure devi temere che mi metta a farla sentimentale e l'incontentabile. Lo so bene che ancora non sono altro che una sciocchina e voglio stare sempre con te finché non sarò capace di badare a me stessa. Ma sentirmi fare i complimenti, vedermi ammirata, è inutile. Mi ha fatto piacere, non posso negarlo. Meg pareva che avesse un po' vergogna a confessarlo. Fin qui è un sentimento naturalissimo, non c'è niente di male quando non diventa una passione, quando non conduce a fare sciocchezze e cose indegne di una ragazza per bene. Impara a conoscere e ad apprezzare quelle lodi che vale la pena di avere, a destare l'ammirazione della gente onesta e giudiziosa con la modestia e anche, sia pure, con le grazie della persona. Meg restò un momento pensosa, mentre Joe, con le mani dietro la schiena, guardava la madre e la sorella con curiosità e un po' con perplessità. Era una cosa nuova udire Meg che, arrossendo, parlava di ammirazione, di ammiratori, di innamorati e argomenti simili. Joe sentiva che in 2 settimane la sorella era cresciuta enormemente. La sentiva lontana ormai, in un mondo in cui ella non riusciva a seguirla. Mamma, è vero che hai fatto i tuoi progetti, tu, come dice la signora Moffat? Chiese Meg un po' esitante. Oh sì, cara, e molti, tutte le madri li fanno, ma i miei sono progetti un po' differenti da quelli che pensa la signora Moffat, credo. Te ne dirò qualcuno perché è tempo ormai di mettere qualche idea esatta nella tua giovane testa romantica sopra un soggetto così serio. Tu sei giovane, Meg, ma non tanto da non comprendermi, e la parola della mamma è quella più adatta a spiegare certe cose a una ragazza della tua età. Anche per te, Joe, forse quel tempo verrà presto, perciò venite ad ascoltarli, i miei progetti, e aiutatemi a realizzarli se sono buoni. Joe andò a sedere sopra uno dei bracciuoli della poltrona della madre, con l'aria solenne di chi sente che si tratta di una cosa molto seria. La signora March prese una mano di una delle 2 figlie in ciascuna delle proprie e, fissando i 2 giovani volti, parlò, seria e pensosa, ma non triste. Voglio che le mie figlie siano belle, piene di tutte le qualità e buone, e questo perché voglio che siano ammirate, amate e rispettate e abbiano una giovinezza felice. Voglio che si maritino bene e con giudizio e che vivano una vita utile e bella, senza altre cure né dolori che quelli che la provvidenza crederà di mandar loro per metterle alla prova. Essere amata e scelta per compagna della vita da un brav'uomo è la sorte migliore, la più bella che possa toccare una donna. E io spero con tutto il cuore che le mie figliuole l'avranno questa sorte invidiabile. Questo, Meg, che una madre lo pensi è naturale ed è giusto che lo speri e l'attenda. Ed è saggia quella madre che prepara le sue figliuole per una simile esistenza, in modo che, quando arriva quell'ora felice, le figliuole si sentano preparate per i doveri e degne delle gioie di quello stato. Mie care bimbe, io sono ambiziosa per voi, non perché aspiri a brillanti successi nel mondo, non perché voglia vedervi sposare un uomo ricco unicamente perché è ricco, o per avere una casa splendida che non è la casa, perché dentro non c'è amore. Il denaro è una cosa indispensabile, preziosa, e quando è usato bene è una cosa magnifica, ma non voglio che voi pensiate ad esso come al primo ed unico scopo al quale si deve aspirare. Vorrei piuttosto vedervi unite a un marito povero, purché felici, amate e contente, che non regine in trono senza il rispetto di voi stesse e senza la pace. Una ragazza povera, sospirò Meg, non ha possibilità, dice Bella, se non si mette un po' in mostra. E allora noi moriremo zitellone e ciao, disse Joe. Certo, Joe, rispose la madre senza esitare, che è meglio una zitellona felice che una moglie infelice o una signorina che non è una signorina e che va a caccia di marito. Ma non stare in pensiero, Meg, è ben raro che la povertà faccia paura ad un uomo che ama davvero. Alcune delle donne migliori e più rispettate che ho conosciuto erano ragazze povere, ma così degne di essere amate che non rimasero zitelle. Lasciate queste cose al tempo, fate la felicità nella casa dove siete nate e apprenderete così a crearla nella casa che sarà vostra, se vi toccherà di averne una, o a vivere contente qui, se non vi toccherà. Di una cosa ricordatevi sempre, figliuole mie, la mamma vostra sarà sempre pronta ad essere la vostra confidente e il babbo il vostro amico, e ambedue confidiamo e speriamo che le nostre figliuole, maritate o nubili, saranno l'orgoglio e il conforto della nostra vita. Sì, mamma. Lo saremo, esclamarono ambedue le ragazze con tutto il cuore mentre abbracciavano la mamma per darle la buonanotte.